quelli che trafficano i nostri dati, che decidono in base ai nostri dati dove posizionare i negozi in città, stanno cominciando a raccogliere i dati personali sull'orientamento sessuale e di genere delle persone. Mm-hmm. Ed è una cosa gravissima questa, perché questo significa categorizzare le persone. Se tu categorizzi le persone, sai che cosa gli puoi offrire e cosa gli puoi far fare, e sai anche se le puoi ricattare oppure no. Mm-hmm. Questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, gli americani hanno obbligato il social network sessuale Grindr a essere rivenduto, perché era diventato di proprietà cinese e dentro c'erano i dati sessuali dei funzionari governativi americani, e grazie a questa app era possibile geolocalizzarsi, sapere dove lavoravano, con chi, per quanto tempo, e quindi esporre i segreti di Stato, insomma, a eventuali curiosi cinesi proprietari di quella app. Queste cose provo a raccontare nel libro. Ecco, e per saperne di più in rete dove si può cercare rispetto al tuo manuale? Ma intanto il mio manuale io ho chiesto all'università di regalarlo a tutti, cioè di metterlo in rete in digitale, perché poi, cioè io, questo è il mio sesto libro personale, è il 34esimo collettivo, perché ho scritto con i miei compagni 28 saggi collettivi, non è che ho bisogno di andare in giro, tanto Federico, i libri, diciamoci la verità, non si vendono e non fanno ricchi chi li vende, e lo sforzo di scrivere un libro non può essere ripagato, a meno che non ti chiami Papa Bergoglio probabilmente. Quindi io ho chiesto di renderlo scaricabile a tutti, mi hanno detto che lo fanno da oggi, dovrebbe essere disponibile online sul sito dell'università. Certo, ti chiedo di registrarti, perché poi il meccanismo è questo, cioè bisogna anche provare a dare un po' di valore alle cose, no? a non farle troppo facili, cioè devi dirci che vuoi veramente leggerlo, quel libro te lo scarichi liberamente. Comunque io ho anche un sito che si chiama dicorinto.it, dove da tempo immemorabile metto le cose che pubblico in Creative Commons o liberamente scaricabili, perché io poi ho questo accordo con i giornali per cui scrivo, cioè anche col Manifesto, con la Repubblica, eccetera, ho questo accordo, cioè io dopo che sono passati due, do a tutti quanti la possibilità di leggere quello che ho scritto, se c'è qualcuno che lo trova utile o interessante, ma anche se Federico dice la verità, sono sempre meno convinto di questo, perché la gente non legge più, ed è uno dei motivi per cui c'è tanta ignoranza, tanto razzismo in giro, ed è il motivo per cui i fascisti stanno rialzando la testa. Ecco, attraverso l'istruzione noi possiamo impedire che il fascismo le alzi la testa, anche a cominciare dalla conoscenza più dettagliata del mondo digitale. Ricordiamo, riprendiamoci la rete, piccolo manuale di autodifesa digitale per giovani generazioni, e il videogame educativo basato sul libro Cyber Hunters. Tutto questo al Link Campus University di Roma, martedì 17 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore Arturo Di Corinto. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, spero di vederti presto. Ciao.